America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Ieri abbiamo parlato di economia, vi ho detto la copertina di questa settimana era dedicata al G20, abbiamo parlato delle prospettive di crescita, delle sfide sul fronte della crescita, ma il G20 sarà anche un G20 importante dal punto di vista politico e della politica internazionale. E proprio ieri a Washington c'è stato un incontro, direi determinante, sentiamo. I want to be very clear that we condemn in the strongest terms Palestinian violence against innocent Israeli citizens. Equally, I want to make it clear that we have not given up our hope for peace. Barack Obama e Bibi Netanyahu, il primo ministro israeliano, è tornato a Washington. È il primo incontro in un anno tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano. Come sappiamo, sul piano personale i due, diciamolo pure apertamente, non si sopportano, hanno proprio una visione diversa delle cose. Sul piano politico c'è stata una divisione molto marcata, addirittura imbarazzante per ambo le parti, quando ci fu la crisi iraniana, la crisi per Israele e Stati Uniti. Quando gli Stati Uniti si avvicinarono all'Iran per il negoziato sul nucleare, Netanyahu andò in Parlamento per far deragliare questo progetto che l'amministrazione stava portando avanti, in Parlamento americano voglio dire. Ecco, da allora un minimo di riavvicinamento ci vuole. È in scadenza un accordo decennale per gli aiuti che gli Stati Uniti danno a Israele. Molta acqua è passata sotto i ponti. Per Barack Obama c'è lo spettro russo. Si rende conto che Israele è molto importante e certo le foto di Netanyahu e Vladimir Putin non sono piaciute. Insomma, ci sono degli elementi importanti. Non ultimo il fatto che al G20 si parlerà di politica, si parlerà di Medio Oriente. I leader mondiali si troveranno a 2 ore dall'ISIS. E dunque, visto che Israele non fa parte del G20, ecco che Obama fa un piccolo brainstorming anche su questi temi con Netanyahu. Ho con me ai microfoni di America 24 Maurizio Molinari, corrispondente della stampa per il Medio Oriente, che è stato proprio in Turchia non tanto tempo fa e che segue naturalmente da vicino, dal fronte, quello che sta capitando in questa zona tormentata. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Maurizio, allora cominciamo dalla parte politica, perché a questo G20, anche per il ruolo dei curdi, si parlerà molto di Medio Oriente, o sbaglio? Sì, Erdogan è reduce con il suo partito da una vittoria schiacciante nelle elezioni turche, che ha vissuto come la legittimazione del suo sogno neo-ottomano, ovvero l'idea della Turchia come pilastro di un Medio Oriente al momento in disintegrazione. E questo passa nella visione di Erdogan, padrone di casa del G20, attraverso un'idea di composizione della crisi siriana attorno a un'agenda dettata da Ankara. Ovvero Ankara vuole avere voce in capitolo su chi sarà a guidare la Siria dopo Assad, quale tipo di Siria sarà e soprattutto avere garanzia che non ci saranno zone autonome o indipendenti di curdi. Questo sarà uno dei temi forti del G20 perché tenterà di imporre la sua impostazione sulla Siria. Ecco, due cose. La Turchia di fatto andrà a far parte di questo gruppo di 5, no? C'è stata quella famosa lettera del presidente Jimmy Carter che dice qui per un accordo sulla Siria bisogna passare attraverso la Russia, l'Iran, la Turchia naturalmente, gli Stati Uniti. Dunque è una composizione a 5, oltre ovviamente alla Siria. Per cui la Turchia di fatto entrerà in questa equazione. Ma ti chiedo Maurizio, due cose. Da una parte l'obiettivo di Erdogan è lo stesso dell'ISIS, cioè quelli di diventare il punto di riferimento per una rinascita dell'impero ottomano. Due, ci sono i Peshmerga, i curdi, che stanno combattendo, devo dire, con grande coraggio, sono gli unici che riescono ad opporsi all'ISIS. E come si può negare un'autonomia a questo popolo di 60 milioni con un territorio che scorre dalla Siria, lungo l'Iran e lungo la Turchia, per una zona geografica grande quanto quasi l'Italia? Il vero rischio di un cortocircuito al G20, ma non solo, è proprio sui curdi. Gli Stati Uniti con Obama si erano proposti di armare, inviare rifornimenti militari ai curdi siriani e Erdogan ha chiesto a Obama di non farlo. Lavrov, il ministro degli esteri russo, appena può, lui dice che all'interno dell'intervento russo in corso c'è anche il sostegno per i curdi in Siria. Erdogan percepisce tutto questo come una minaccia alla sovranità nazionale turca, cioè il rischio di un cortocircuito fra la Turchia da una parte, gli Stati Uniti e la Russia dall'altra sul tema dell'autonomia dei curdi e sul ruolo che loro avranno nella guerra, nelle operazioni militari contro Assad. Bisogna tenere presente che la Turchia intende comportarsi al tavolo del G20 da superpotenza regionale. E beh, è anche il padrone di casa, oltretutto, non dimentichiamolo, ed è membro della NATO, l'unico paese, diciamo, islamico che è membro della NATO. Potrebbe svolgere sicuramente un ruolo molto più attivo e molto più costruttivo, ma dalla Turchia purtroppo giungono, come dire, dei problemi, appunto, sia dal punto di vista politico che dalla strategia. Secondo te si potranno superare alcuni di questi problemi oppure andiamo verso uno scontro? Credo che noi vedremo uno sfoggio di potere politico da parte della Turchia, forte anche del fatto che attorno al tavolo al G20 c'è l'Arabia Saudita, che è il suo grande alleato in Siria contro Assad e, attenzione, contro l'intervento russo. I due protagonisti di questo summit si annunciano Putin e Erdogan, portatori di disegni opposti sul futuro della Siria. Ecco, torniamo a Israele. C'è stato l'incontro ieri alla Casa Bianca. Netanyahu ha fatto dei passi in avanti, deve riaprire un negoziato con questa amministrazione per gli aiuti. Secondo te quella piccola marcia indietro che ha fatto sul negoziato per la pace con due stati, quello palestinese e quello israeliano, da cui aveva preso le distanze non tanto tempo fa, è soltanto di facciata o è una cosa reale? C'è una cosa che mi ha colpito, perché ha detto: per uno stato israeliano e uno stato palestinese disarmato. Ma questo non lo accetteranno mai i palestinesi, è un non starter, o sbaglio? Obama e Netanyahu arrivano da 13 mesi, come tu prima hai giustamente ricordato, di gelo. Adesso hanno di fronte 15 mesi, gli ultimi 15 mesi di Obama alla Casa Bianca. C'è un interesse convergente a evitare nuove crisi e a trovare punti di intesa. Le parole di Netanyahu sulla soluzione dei due stati hanno voluto essere un ramuscello d'olivo a Obama prima ancora che a Abu Mazen. Così come quando Obama ha detto: rinegozieremo l'accordo militare prima della scadenza dei due anni, ha significato un'apertura alla richiesta israeliana di un nuovo accordo decennale per 50 miliardi di dollari, un ammontare senza precedenti nei rapporti bilaterali. Ma credo che tu abbia ragione quanto hai detto prima sul fatto che in realtà hanno parlato di Siria, hanno parlato di Putin, ovvero dell'agenda che in questo momento li accomuna, il dopo Assad. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ci avviciniamo al G20, direi atmosfera, come dire, di speranza, difficile ma anche di pace. Maurizio, sei sempre con noi in linea. Cosa proponiamo ai nostri ascoltatori? Ma è la settimana dove abbiamo ricordato la scomparsa di Rabin, premier assassinato 20 anni fa. Quella notte su Piazza Indipendenza a Tel Aviv lui cantò la canzone della pace, The Song of Peace, Shir LaShalom, che è l'inno praticamente di chi crede nella pace in Medio Oriente. Vabbè, Rabin che fece la pace, il guerriero che riuscì a fare la pace, beh, direi, mi sembra una ottima scelta. E dunque, in nome della pace che speriamo possa essere discussa al G20, Shir LaShalom. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!